Ondivago. Sono Max Ponte e vi invito ad ascoltare la nuova serie di Ondivago, il programma culturale che conduco e che preparo ogni settimana per voi dagli studi di Torino. Si tratta di un modo insolito di fare radio per destare la voglia di scoprire e di conoscere. Ondivago si può ascoltare tutti i mercoledì su Radio Prima a mezzanotte e in replica il venerdì alla stessa ora. L'ultimo mercoledì del mese la puntata sarà in francese a cura di Anna Raffaella Farao. Per informazioni e per le puntate precedenti andate sul sito www.ondivago.com.